L'orgoglio della bella pronunzia. Mi ritorna nella memoria l'irrisione feroce dei miei condiscepoli nel ginnasio pratese, quando per la prima volta chiamato mi levai dal mio banco a declinare il nome della rosa, pronunziandolo come fosse il participio passato del verbo rodere. Mi ritorna nella memoria quella mia costante e orgogliosa disciplina vocale, per cui giunsi in breve a correggere i suoni del dialetto nativo e a vincere di moderazione con bellezza perfino un mio emulo affettatuzzo di Siena. Gabriele D'Annunzio.